Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, questa sera parliamo di sicurezza stradale. Dedicheremo diverse puntate a questo tema, sapendo che è un tema centrale per le città, perché è proprio nelle città che si concentra la maggior parte dei morti dovuti alla strada e con delle peculiarità tra l'altro piuttosto preoccupanti. Vi presento subito l'ospite di stasera, la professoressa Lorella Montrasio, direttrice del DIS, il Centro di Ricerca di Sicurezza Stradale. Buonasera Montrasio. Buonasera. Dunque Montrasio, le chiedo subito qualche numero macro, quanti incidenti, costi sanitari, sociali, eccetera, eccetera. Gli incidenti sono dati relativi al 2010, che sono gli ultimi di cui disponiamo, 311.000 con 200.000 feriti e il drammatico 4.090 morti ogni anno. 600 circa sono giovani tra i 14 e i 24 anni, quindi sono dei numeri spaventosi. Con dei costi anche spaventosi. Sì, 30 miliardi all'anno dalle stime ultime ACI Istat, che significano il 2% del PIL, del prodotto interno lordo. Quindi i numeri di una guerra, 4.000 e passa morti all'anno sono, e anche i costi diciamo sono quelli decisamente di una guerra. Cerchiamo di capire di che tipo di guerra stiamo parlando, quali sono le circostanze in cui si verifica il grosso degli incidenti, chi sono le vittime tipicamente di questa guerra? Ma sono molto ben distribuiti sia gli incidenti che i morti. Certamente nelle città, essendo maggiore il numero di strade, di percorrenza, di persone presenti, si concentra, come lei giustamente diceva inizialmente, il maggior numero di morti e feriti. Il pedone, il ciclista, il motociclista sono certamente penalizzati, la maggior parte dei morti sono comunque in auto. La concentrazione nelle città è dovuta a tante cause, la distrazione in primis, cioè sì, l'utente che non è preparato ad affrontare correttamente i pericoli della strada, non sente la strada come pericolosa. E nemmeno chi sale in macchina ha questa percezione, no? Si dice spesso che il pericolo è molto diverso dalla percezione che si ha del rischio, per cui siamo spaventati quando saliamo in aereo, ma quando saliamo in macchina non pensiamo minimamente che ci sono 4.000 morti all'anno. Quindi la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui dati, sulla pericolosità della strada è un primo punto fondamentale per cercare di rendere più guardinghi gli utenti della strada, tutti, verso i pericoli della strada. Ecco, poi ci sono però una serie anche di ragioni assolutamente banali, di sciocchezze che causano morti. Certamente, ce ne sono tantissime di situazioni potenzialmente pericolose che potrebbero essere evitate a prescindere dalla sensibilità, anche proprio con accorgimenti infrastrutturali. Per esempio, banalmente, delle strisce pedonali dove si verificano, questo è un dato che su scala europea è confermato, la maggior parte degli incidenti con feriti e morti proprio sulle strisce, tanto che alcuni paesi hanno deciso di cessare l'adozione delle strisce. Londra, che ha inventato, diciamolo, le strisce pedonali, le sta togliendo dappertutto laddove non siano accompagnate con altri sistemi di segnalazione, come per esempio i semafori, resteranno solo solinghe, diciamo solo quelle di Abbey Road, dove c'è la fotografia con i Beatles, tanto per intendersi, e le hanno inventate loro. Le hanno inventate loro e adesso le stanno togliendo. Sì, perché i dati sperimentali, quelli che dovrebbero essere alla base di qualunque provvedimento venga preso per migliorare la sicurezza stradale, chiaramente hanno rivelato negli anni che lì si verifica il maggior numero di incidenti, cioè sulle strisce pedonali. E per esempio, anche se si volessero mantenere le strisce pedonali, perché non dappertutto, non in tutti i paesi, non in tutte le situazioni sono così potenzialmente pericolose, cioè vanno analizzate anche le situazioni caso per caso. Certo. Ma per esempio le strisce pedonali poste davanti alla fermata dell'autobus sono generatrici di pericoli enormi, perché chiaramente la gente scende dall'auto, la prima cosa che fa è attraversare sulle strisce. L'automobilista spazientito dalla sosta dell'autobus decide di superare l'autobus e c'entra il pedone. Quindi con questo sistema di incidenti di questo tipo se ne verificano non conosciamo esattamente il numero, ma tantissimi. E poi ci sono, insomma, le buche nella strada, poi ci sono un sacco di casi di autostrade prese in contromano, e lì ci si domanda se non si potrebbe fare una segnaletica un po' migliore. Dico queste cose anche perché lei ha toccato questo tema dei numeri, dei dati, perché la mia domanda a questo punto dovrebbe essere: bene, che cosa facciamo, quanto ci costa, eccetera, eccetera. Ma lei me l'ha già detto, non siamo in grado in questo momento in Italia di rispondere a questa domanda. Sì, perché purtroppo non abbiamo un sistema dati disponibile per qualunque tipo di elaborazione. Cioè lo scienziato, tra virgolette, ricercatore, diciamo, parte dal dato per fare le analisi e poi trovare delle soluzioni da applicare, di cui poi verificherà la bontà. E anche il rapporto costi-benefici. Per esempio, se io le chiedessi quanto ci costano le buche nell'asfalto, lei non può rispondermi. Non quindi saprei risponderle minimamente. Ecco, diciamo una cosa, perché altrimenti uno dice: vabbè, ma questi del centro sicurezza stradale che ci stanno a fare se poi non producono questi numeri? Siete giovani voi? Noi siamo fino alla fine del 2010 la sicurezza stradale è in capo alla divisione sicurezza stradale del Ministero dei Trasporti. I dati vengono raccolti da polizie locali e polizia stradale, con cui noi abbiamo tra l'altro un protocollo d'intesa. C'è difficoltà per entrare in possesso di questi dati per tutta una serie di protocolli d'intesa che esistono con Istat, che vincolano, creano la... Allora, lei sta dicendo che in realtà questi dati non dobbiamo aspettare 10 anni per raccoglierli, ma che bene o male da qualche parte si trovano, ci sono già, ma voi non riuscite ad accedere a questi dati o non riuscite ad accedervi in modo tale da riuscire a interpretarli correttamente. Assolutamente, assolutamente così. Dunque, Montrase, ci dobbiamo fermare qui. Se lei è d'accordo, però, ci risentiamo domani. La ringrazio, a domani a tutti i radioascoltatori. Appuntamento a domani, allora, con un po' di idee su come rendere più sicure le strade. Buona serata.